Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Anche quella sera Don Sebastiano leggeva nello studio fatto deserto, al lume della grande lampada a petrolio, che non aveva voluto sostituire con la luce elettrica di Don Pasqualino, perché diceva stancava la vista. Ma non occorrevano molte lampade e nemmeno molti occhiali per quei titoli di scatola che annunciavano l'efferata uccisione di un arciduca austriaco in un oscuro paese della Serbia. Don Sebastiano leggeva e a ogni riga si portava agli occhi il grande fazzoletto che in campagna si metteva tra il collo e la camicia per arginare il sudore. Egli, come ogni nuorese, era abituato all'odio e alla morte. Non c'era mese che da Orgosolo non arrivasse la notizia di qualche carneficina e al destino non sfuggivano neppure quegli orgolesi che si rifugiavano a Nuoro. Era passata sì e no una settimana dalla mattina in cui avevano steso nel lago del suo sangue Antonio Bussu, che era un brav'uomo ed era fuggito da Orgosolo in casa di Francisco Sole, col quale era amico di posata. Stava tutto il giorno chiuso. Quella mattina provò a prendere una boccata d'aria e si spinse fino agli alberetti di Seuna, non più di 200 passi. Due fucilate lo ridussero subito a nulla. Lo ricordo anch'io perché marinammo la scuola per andare a vedere la gora che era rimasta e ancora fluiva tra le pietre. Ma Antonio Bussu sapeva chi l'aveva ucciso, come Abele conosceva Caino. Questo arciduca non sapeva nulla, come nulla sapeva il re d'Italia che avevano ammazzato 14 anni prima. Il notaio non riusciva a capire l'odio per l'odio e perciò lacrimava sotto gli occhiali da presbite. E attraverso un velo di pianto lesse che l'Austria minacciava la guerra alla Serbia e questa guerra avrebbe fatalmente trascinato tutta l'Europa. Don Sebastiano aveva nel 1914 64 anni, che per quel tempo erano molti, ma se li portava benissimo, nella felice alternanza tra la carta bollata e i vigneti di cui ormai raccoglieva il frutto dopo tante fatiche. Egli era sempre il capo della famiglia, anche se la famiglia si era scomposta. Nella vecchia casa erano rimasti il piccolo Sebastiano e Peppino, che però l'anno venturo sarebbe chiamato anche lui per gli studi liceali a Sassari o a Cagliari. E poi trascorreva lunghi periodi Ludovico, che aveva superato la licenza liceale svolgendo il tema «Quis quest sue fortune faber» e sostenendo che non era vero. Del che si era parlato a lungo e ancora si parlava. Purtroppo, dopo lo sforzo, la sua nevrosi si era accentuata e frequentava poco la facoltà di legge alla quale si era iscritto. Poteva darsi, ma forse anche questo faceva parte della nevrosi, che lo turbasse la vista di quei goliardi sassaresi che prendevano la vita con tanto impeto e quasi con irrisione, decisi allo studio come alla sbornia, molti dei quali venivano dagli sperduti paesi dell'interno con l'audacia dei poveri che scoprono il mondo. La sottile trama della sua vita programmata ne restava sconvolta. Fatto si è che passava gran tempo a Nuoro, quasi in un prolungamento di infanzia, e là cominciava a formare, accanto alla letteraria, la biblioteca giuridica, cioè ad acquistare i trattati e le monografie che avrebbe letto quando sarebbe venuta l'ora. Pian piano, per il suo forbito parlare, per la prudenza che mascherava la sua fondamentale incertezza, per le massime eterne attraverso le quali sfuggiva alla pericolosità dell'azione, per la sua stessa precarietà fisica, andava diventando il punto di riferimento nella vita familiare e lo stesso Don Sebastiano cominciava a consultarlo nelle difficoltà che incontrava. Egli, che non avrebbe mai chiesto o ascoltato i consigli di uno della famiglia, come ben sapeva nella sua tristezza Donna Vincenza, la quale cullava ancora questo figlio, ansiosa per la salute e astiosa verso Sanna, che non si accorgeva di nulla. l'abbandono del suo corpo non le aveva ingrossato soltanto le gambe, ma le aveva devastato i denti e, quel che è peggio, velata la vista. Le cose e le persone si trasformavano in ombre. La sua acutissima intelligenza suppliva al declinare dei sensi e perciò, dalla sua poltrona a braccioli, viveva intensamente la vita della casa. Leggeva in volto a ciascuno dei figli e dalla finestra alla quale nelle lunghe sere monotone si affacciava riconosceva al passo, alla voce, le persone che andavano sul selciato e non alzavano gli occhi per non salutarla. Ritrovava la sua natura gioiosa negli scherzi con i due figli minori, Sebastiano e Peppino, che le erano rimasti attaccati. Sebastiano le sarebbe saltato ancora in grembo se ella non si fosse schernita. Peppino, che mostrava nel viso affilato la delicatezza quasi femminea della sua anima, colto da chissà quale richiamo, aveva scoperto un mondo misterioso, i poemi antichi d'Oriente, e quando tutti e tre erano soli ne leggeva qualche verso nella traduzione di Michele Kerbacher o di Italo Pizzi, e lei faceva finta di capire, o forse anche capiva, sospinta dall'amore materno. Anch'essa aveva i suoi momenti di felicità. Sebastiano era orgoglioso di questo fratello poco più grande di lui e con lui formava mondi lontani iridescenti nei quali sarebbero vissuti da grandi. È quello che fanno tutti i ragazzi, solo che questi sogni si facevano a Nuoro, dove nessuno sognava. Questo, a dire il vero, non è esatto. Anzi, è vero il contrario, e cioè che sognavano tutti. Ma i sogni dei nuoresi erano come quelli di Antoni Mereu. Antoni Mereu era, mi par di vederlo, un contadino che viveva ai margini di Seuna e andava, come tutti, a giornata, solo che aveva un campicello con 4 olivi e 10 viti, e questo lo metteva sopra agli altri perché condiva il pane col suo olio e beveva il suo vino. Era, come tanti del resto, compare di Don Sebastiano, che gli aveva tenuto a battesimo l'unico suo figliolo. Questi cresceva magro, striminzito, con la testa pera, e sarebbe stato un buon seunese se il padre non si fosse appunto messo a sognare, e il sogno era quello di avviarlo per gli studi. Ne parlò al compare, che gli diede del pazzo. Lui non sapeva che cosa voleva dire far studiare un figlio, e poi ognuno deve seguire il proprio destino. Antoni, duro, mandò il figlio a scuola, e a dispetto di Don Sebastiano egli non faceva male. Ripeteva qualche anno, ma alla licenza normale ci sarebbe arrivato. Antoni Mereu lavorava come una bestia, aspettando quel giorno. Ed improvviso il figlio cominciò a tossire, a smagrire sempre più e poi a sputare sangue. Antoni andava errando per le strade come un cane perduto. Stringeva il cuore a vederlo, ma la colpa era sua, perché aveva voluto sognare. Io però divago con questi ricordi che si affollano alla mia mente e non ho tempo da perdere. I sacrifici di Don Sebastiano cominciavano a dare i loro frutti. Era anzi giunto il momento in cui la famiglia va avanti per conto suo e i genitori rimangono come impotenti spettatori a guardare e a soffrire. Per giunta l'esempio sublime di Don Sebastiano gravava sui figli. Troppo lo avevano visto lavorare, privarsi di tutto per non sentire il bisogno di alleviare appena possibile il suo carico. Era una suprema ingiustizia, perché il padre non chiedeva che di coronare il suo sacrificio col portare al successo i figli tanto dotati. Per quanto non avesse viaggiato, sapeva che ci sono carriere sfolgoranti, mete più lontane di quelle degli avvocati e dei medici che popolavano il borgo. C'era la carriera universitaria che faceva acquistare fama, e non mancava in Sardegna qualche esempio, come quello di Chironi e di Fadda, che egli aveva conosciuto da ragazzi. Il povero notaio sognava anche lui. Invece Gaetano, che si era laureato con grandissima lode in medicina, aveva subito concorso per una condotta in un paesuccio lontanissimo del Campidano, perché voleva guadagnarsi la vita. E lo stesso avrebbe fatto Michele, che studiava da ingegnere. Ma bisogna riconoscere che anche questa indipendenza dei figli aveva il suo lato positivo, perché gli impegni non erano finiti e c'erano ancora i figli minori che fra non molto sarebbero andati fuori anche loro e c'erano Pasquale e Giovanni che davano da pensare. Per la verità, Pasquale, che pareva destinato a perdersi, era stato salvato da Ludovico con un atto di audacia che aveva concorso non poco a fargli acquistare la fama di saggio che lo avrebbe accompagnato tutta la vita. Pasquale era certamente intelligente come i fratelli, ma non aveva voglia di studiare. Nel severo ginnasio di allora ogni anno era una bocciatura. In famiglia c'era aria di tragedia perché i piani di Don Sebastiano ne restavano sconvolti. Tutti i mezzi più violenti erano stati tentati senza nessun frutto. L'onta di un figlio inutile gravava sulla famiglia. Fu allora che Ludovico, il quale aveva mantenuti i rapporti col direttore del ginnasio, andò a parlargli e insieme presero la grande decisione. Pasquale era inadatto agli studi classici. Bisognava avviarlo per gli studi tecnici, rinunciando a farlo laureare. Furono giorni di lutto per Don Sebastiano. Com'era possibile che un suo figliolo non si laureasse? Ma non c'era nulla da fare e Pasquale dovette prendere la via di Sassari dove avrebbe studiato ragioneria. E pareva che in qualche modo se la cavasse. Fiero di quel successo, Ludovico tornò ai suoi libri intonsi, ma aveva acquistato il dominio spirituale della famiglia. La vera grande pena per Don Sebastiano era Giovanni, il maggiore dei figli. Si ricorderà che egli fin da ragazzo viveva una vita sua quasi sdegnoso dei fratelli, immerso in un cupo sogno. E si ricorderà anche che correva la voce che si fosse invaghito della bellissima figlia di Don Pasqualino, che era terribilmente malata. Ora costei era morta e da quel momento pareva che Giovanni fosse entrato in un alone di follia. Aveva raggiunto l'università, anche lui nella facoltà di legge, ma era andato fuori corso. La gente mormorava che non poteva andar bene a Don Sebastiano e Don Sebastiano, che non si rendeva ben conto delle cose, scriveva lettere su lettere, niente di meno che al rettore dell'Università di Roma, per sapere se il figlio, che non dava mai notizie, era in regola con gli esami. Scriveva con la stessa povera penna con la quale rogava gli atti, ma il rettore non rispondeva, a meno che non fossero i figli a nascondergli la risposta, per non dargli dolore. Lui incolpava la posta e diceva che un giorno o l'altro sarebbe andato di persona a informarsi. La tragedia era quando, dopo le sconfitte agli esami, ritornava a casa. Arrivava d'improvviso, come in un albergo dove la stanza è sempre prenotata. La notizia della sua presenza era data dal passo pesante per le scale, dalla porta sbattuta della sua camera. Peppino interrompeva le sue letture, Donna Vincenza sgranava il rosario, Ludovico diceva che bisognava lasciarlo stare, Giovanni era un finto nevrastenico, il grande malato era lui e non disturbava nessuno. Passava così i giorni. Quando si degnava di venire a tavola, il pranzo diventava funebre. Nessuno sapeva cosa mangiava. Don Sebastiano, che moriva di fame perché faceva un pasto al giorno, masticava furiosamente e il rumore della dentiera scandiva il silenzio. Pareva che quel disgraziato odiasse la famiglia. Questo padre che governava il cavallo prima del pasto e portava con sé l'olezzo della stalla, questa madre invecchiata anzitempo, ignorante, tetra, questi fratelli malvestiti che superavano gli esami ridendo. Don Sebastiano inforcava appena mangiato il cavallo e andava alle sue campagne assolate. Si impiccassero tutti. Donna Vincenza piangeva senza lacrimare e tra le proteste dei figli saliva le scale come poteva e stava per delle ore immobile davanti alla porta della sua stanza senza osare di bussare. In questa famiglia che si formava e nello stesso tempo si distruggeva, come è legge di tutte le famiglie, Don Sebastiano quella sera gettò la notizia dell'arciduca ucciso e della possibile dichiarazione di una guerra che avrebbe potuto coinvolgere l'Italia. I ragazzi avevano gli occhi brillanti, come quando leggevano una storia di Plutarco. Ludovico disse che se non avesse avuto quella nevrosi gastrica sarebbe andato volontario. Don Sebastiano leggeva a voce alta il giornale, non senza una punta di fierezza. Solo Donna Vincenza, nel fondo del suo buio, capì una cosa semplicissima, che in guerra si muore e che dei 7 figli, 5 erano esposti a morire se l'Italia entrava in guerra. Col cuore in tumulto gridò, e non si era mai sentita la sua voce così alta, che l'Italia non era in condizioni di fare la guerra. Tutti stupirono e don Sebastiano, sempre pronto a commuoversi e a vedere le cose in color di rosa, stava per dire che lei era al mondo perché c'è posto, ma per fortuna si trattenne. Farneticò invece dei vecchi che in una guerra possono rendersi utili anche se non vanno in prima linea. Basta, come tutti sanno, il mondo entrò in guerra e l'Italia per un anno rimase sospesa sull'orlo dell'abisso. Nel caffè Tettamanzi, dove si odiava l'Italia perché aveva fatto della Sardegna una terra di confino, come se questo non fosse stato il suo destino da Roma in poi, si diceva tra un bicchiere e l'altro che se l'Italia faceva la guerra, i sardi dovevano rifiutarsi di combattere. Parole su parole, tanto più che arrivava dall'Italia gente mai vista, che prendeva contatto con i socialisti e naturalmente con Don Ricciotti, improvvisando comizi per la liberazione di Trento e Trieste e raccogliendo folle nella piazza San Giovanni, che applaudivano freneticamente sebbene nessuno avesse mai sentito nominare quelle città. Anche il commissario Palazzi, che aveva evidentemente ricevuto l'ordine dal governo, sfoderava la fascia tricolore e lanciava i 3 squilli di tromba, ma lo faceva senza convinzione perché la febbre aveva preso anche lui. Divorata dall'ansia, donna Vincenza pensava che il primo a essere chiamato sarebbe stato Pasquale, perché era di leva, e poi sarebbero venuti gli altri perché la guerra non sarebbe durata 2 mesi, come dicevano quegli impostori. 5 figli almeno potevano correre il terribile rischio. Solo Sebastiano e Peppino l'età avrebbe reso immuni. Aveva ripreso a pregare, non dormiva più neanche quelle poche ore che la sua pena di tutti i giorni le consentiva. Il suo solo conforto era Gonaria, che non aveva figli. Aveva il fratello prete, ma sapeva che la guerra aveva la sua radice nel peccato originale e non poteva che dare frutti di dolore. Trascorrevano lunghe ore sotto il pergolato, che già si copriva di pampini. Ci saranno, quando spunteranno i primi grappoli. D'improvviso una speranza. I giornali recavano la notizia che in un posto chiamato Avezzano c'era stato uno spaventoso terremoto. I giornali apparivano listati a lutto, il re era andato sul posto, lo smarrimento era in tutti i cuori. L'Italia non può fare la guerra in queste condizioni. Questo fu il pensiero che le attraversò l'anima e si aggrappò ad esso disperatamente. Anche Gonaria disse che Dio aveva mandato un segno della sua potenza per ammonire gli italiani. E invece la guerra venne, come tutti sanno, perché gli uomini sono più potenti di Dio. A pensarci bene, Dio è fatto per il singolo individuo che ripone in lui la speranza, non per l'intera umanità, con le sue leggi, le sue organizzazioni, la sua forza. L'umanità è il demonio che Dio non riesce a distruggere. E così i figli di donna Vincenza presero la via del fronte, che per la Sardegna cominciava a Terranova, al porto d'imbarco, a causa dei sottomarini. Essa rimase nella vecchia casa, custode del tempo, con i 2 più piccoli, con Ludovico e Giovanni, che erano stati scartati. I rapporti con don Sebastiano si esasperavano. Preda del suo sentimento, non aveva voluto far nulla per imboscare i figli, e donna Vincenza invano gli rinfacciava i figli di don Pasqualino, che erano rimasti a Nuoro perché erano industriali, i figli dei Corrales perché erano agricoltori. Meditava di peggio, poiché il governo emetteva prestiti su prestiti in nome della patria minacciata, voleva vendere tutti i beni per sottoscrivere le obbligazioni al 5%. La salvezza venne, come sempre, da Ludovico, che sarebbe andato volontario se non fosse stato per quella maledetta nevrosi, ma aveva tanto equilibrio, e del resto aveva studiato per l'esame che doveva fare un poco di economia, da capire che le guerre producono l'inflazione e tutti quei titoli sarebbero diventati pezzi di carta. I doveri verso la patria li aveva adempiuti con i figli e quando essi sarebbero tornati gli avrebbe chiesto conto di Sporosile e di Locoi, che erano anche cosa loro. Giovanni continuava a essere quello che era, se non peggiorava. Quando arrivava il giornale e Sebastiano lo leggeva a voce alta sotto il pergolato e don Sebastiano ascoltava con gli occhi lustri, egli passava di sghembo come un allucinato e strappava il giornale dalle mani e correva a leggerlo nel suo rifugio. Nessuno aveva il coraggio di protestare, anche perché donna Vincenza tendeva le mani come a prevenire una sciagura. In fondo, se si impadroniva del giornale, voleva dire che aveva interesse alla vita. La guerra si faceva sentire a Nuoro coi telegrammi che davano notizia dei caduti al fronte. Era morto il figlio di Buziuntu, era morto il figlio di Palimode, era morto il figlio di zia Tatana, gente di Seuna, di San Pietro, del Corso, tutti in un mucchio, come le pecore al mattatoio. Il caffè Tettamanzi si era spopolato. Quei giovani socialisti che si davano delle arie con l'avanti che spuntava dalla tasca erano tutti andati volontari al seguito di Mussolini. Gli sfaccendati che aspiravano a imborghesirsi o avevano preso il trenino che li portava all'altro mondo o si erano nascosti nei servizi civili e non si facevano vedere per la vergogna. Erano rimasti Bartolino, Giovanni Maria Musiu, Ricciotti e gli altri anziani a continuare le partite e a fare i disfattisti. Per il resto, la guerra era una cosa remota. Si continuava a mangiare pane bianco e le tessere servivano solo per chi non era capace di arrangiarsi. Intanto passavano gli anni e non si vedeva la fine. Vennero invece in casa di don Sebastiano due fogli di carta coi quali si chiamavano alle armi Peppino, che aveva 18 anni, e Giovanni, che ne aveva più di 30. Se per Giovanni non c'era da preoccuparsi troppo perché veniva assegnato ai servizi territoriali e poi toglieva un incomodo, Peppino era poco più che un adolescente e lo volevano proprio per ammazzarlo. A tal punto si era ridotti. Donna Vincenza, col cuore ormai impietrito, gli riempì la valigia di panini dolci, che duravano anche un mese, ed egli prese il trenino accompagnato da don Sebastiano che camminava impettito. Nella casa deserta Sebastiano rimase solo perché Ludovico era andato a Sassari a fare gli esami che la guerra aveva molto facilitato.